Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Oggi è 21 dicembre, l'ultima puntata del 2012 di Italia in controluce. Ritorniamo il 7 gennaio con questa formula che abbiamo inaugurato negli ultimi tre mesi, che sembra dare buoni risultati, cioè il racconto sul fatto quotidiano, quello che noi almeno pensiamo, crediamo sia il fatto quotidiano, con l'ausilio naturalmente dell'intera redazione di Radio 24 e con i vostri SMS. Oggi parliamo della Lombardia, cioè del Consiglio regionale degli indagati. Quello lombardo è infatti il Consiglio regionale con il maggior numero di indagati in Italia. Sono a quest'ora numero 62 per la precisione, 22 di loro sono esponenti del PDL, 15 della Lega. Ci sono nomi noti come Nicol Minetti, Renzo Bossi, altri ne arriveranno probabilmente, e non si esclude, anzi è quasi certo, che si lavorerà anche per quanto riguarda i rimborsi dell'opposizione. Tutto avviene mentre dopo le primarie del centro-sinistra, che hanno consacrato la candidatura di Umberto Ambrosoli, è già in corso di fatto la campagna elettorale per eleggere la classe politica lombarda del futuro. E Umberto Ambrosoli, lo sentirete tra poco ai microfoni di Raffaella Calanda, ha lanciato una proposta: se collegassimo lo stipendio dei consiglieri alle loro effettive prestazioni lavorative politiche, una sorta di stipendio a punti per i consiglieri, questo non solo per la Lombardia ma per tutti i consiglieri regionali. Lo propone dunque Umberto Ambrosoli. Voi siete d'accordo? 349 238 6666. Dunque, da dove partiamo, Raffaella? Perché il numero è piuttosto consistente e diciamo che probabilmente è la regione, la Lombardia, che ha il maggior numero di indagati come consiglieri, o c'è qualcuno che batte anche la Lombardia? No, allora, questo come numero dei consiglieri indagati per la vicenda del peculato, quindi delle spese diciamo non giustificate al momento, poi staremo a vedere quello che stabiliranno i magistrati, di sicuro quello della Lombardia è il numero più elevato, anche se casi celebri come dal Lazio in poi ci sono anche in molte altre regioni italiane. Le ultime della cronaca giudiziaria ci raccontano dell'invio proprio questa mattina degli inviti a comparire per questi ultimi indagati per peculato, e già questa mattina stessa, subito dopo, si è presentata al quarto piano del Palazzo di Giustizia Rosi Mauro, la leghista Rosi Mauro, vicepresidente del Senato, chiedendo di essere subito sentita per spiegare quelle spese che le vengono contestate. In questo momento si trova di fronte ai magistrati Alfredo Robledo e Filippini. Rosi Mauro è uno dei 37 nuovi consiglieri regionali lombardi indagati per peculato. E se fino a questo punto sono già 1.300.000 i rimborsi considerati dubbi dagli inquirenti, in procura la cifra potrebbe lievitare ancora, insieme all'attività di verifica della Guardia di Finanza, che ora andrà a spulciare, come dicevamo, pure le spese dell'opposizione. Nel frattempo, al Pirellone, all'interno di PDL e Lega, sono soltanto 3 gli eletti nel Consiglio regionale rimasti fuori da questa inchiesta sulle spese pazze, 62 come ricordavi in totale nelle due tranche gli indagati, che dovranno quindi spiegare il perché di così tante costose cene, di ancor più taxi, di ricevimenti fastosi in coincidenza ad esempio del matrimonio della figlia in un caso, ma anche di moncherie o lecca lecca messi in nota spese, come pure delle ricevute per videogiochi e bibite contestate ad esempio a Renzo Bossi, figlio del senatore. Se Rosi Mauro è ora in procura, una giustificazione ha già provato a darla ai magistrati Angelo Giammario, consigliere dimissionario del PDL. A lui contestano 114.000 euro di spese. Al procuratore aggiunto Robledo ha parlato di taxi presi per continuare a studiare e prepararsi per il Consiglio regionale, o di una sfilza di gelati, ammesso a verbale, comprati per i bagnanti. Vedremo se queste versioni convinceranno o meno gli inquirenti milanese. Per gli ultimi indagati, al di là della Mauro, che si è subito presentata in tribunale, come dicevamo, gli interrogatori cominceranno dopo l'Epifania, quando l'attività della Guardia di Finanza andrà anche nella direzione di PD, SEL e di tutte le altre forze di opposizione al Pirellone. Intanto il caso di sicuro rappresenta l'ultima bufera politica per un Pirellone già colpito da numerose inchieste oltre a queste. Al momento solo 3, dicevamo, non sono i consiglieri della maggioranza toccati dall'indagine e chi è fuori però non vuole commentare, come Viviana Beccalossi, per non strumentalizzare né infierire, visto che ho appena lasciato il PDL, ci ha detto poco fa, per andare con Giorgia Meloni, e replica con un secco no comment anche se Enzo Lucchini ora all'AS di Lecco. Da parte sua ci sono agli atti soltanto 5 euro di richiesta di rimborso per una raccomandata. Daniele. Allora, vediamo i vostri sms. Ce n'è uno, c'è un numero di telefono che può inviare dai 400 ai 600 sms praticamente identici. E rispondo solo ad uno, cioè come mai nelle regioni rosse dove regna il malaffare i magistrati dormono? Non è strano? Ecco, io direi che è totalmente smentibile questo. Certo, anche perché ad esempio in una delle più classiche regioni rosse, l'Emilia Romagna, c'è un'inchiesta proprio su questo. Ecco, qualcuno dice: sono d'accordo, sono nata a Milano 56 anni fa e vorrei vedere finalmente una giunta veramente democratica ed evoluta. Un altro dice che vuole anche le spese dei consiglieri comunisti. Ma noi non stiamo, noi stiamo facendo i giornalisti, noi stiamo raccontando la storia di un'inchiesta a dir poco vergognosa che sta coinvolgendo quasi la totalità dei consiglieri regionali della regione con il prodotto interno lordo maggiore. E quindi facciamo e teniamo conto di questo. Il numero 62 non l'abbiamo inventato noi, se l'ha inventato, se lo sono inventati quei 62 che hanno fatto quello che abbiamo raccontato. Quindi noi facciamo solo il lavoro dei giornalisti, cioè raccontiamo quello che sta accadendo, e non potevamo ignorare la storia di un consiglio regionale di indagati. Questo non lo scrivo io, ma lo scrivono i verbali, lo scriveranno molto probabilmente anche le inchieste e i processi. C'è chi dice di guadagnare 1600 euro di stipendio e non si è mai sognato di chiedere rimborsi, intanto insegna rimborsi per libri oppure per DVD, come scrive Fabio. Chi parla di congiura del silenzio sul Movimento 5 Stelle, questo non capiamo a che proposito, cioè se riguarda la Lombardia, il Consiglio regionale degli indagati, oppure se ci paga qualcun altro. Ecco, c'è poi al 349-238-6666 chi in qualche modo rileva il fatto che in Lombardia mangiava anche l'opposizione e che c'è stato anche un signore chiamato Penati, che ricordo però è stato rinviato a giudizio. Allora sentiamo Umberto Ambrosoli, che è il candidato del centro-sinistra per le prossime regionali, ma al di là di questo ha tirato fuori in questa intervista qualcosa che può essere condivisibile da tutti, cioè collegare lo stipendio dei consiglieri alle loro effettive prestazioni e alle prestazioni anche dal punto di vista lavorativo e politico, una sorta di stipendio a punti. Certo, i numeri sono preoccupanti e rappresentano quantomeno un processo normativo fallimentare. Ci sono stati degli abusi molto gravi, tanto più in un momento di crisi come questa non possiamo permetterci che la cittadinanza veda in chi raggiunge posizioni di potere solo ed esclusivamente soggetti capaci di approfittarsi della propria situazione. Potrebbe voler dire una modifica anche di tutto il meccanismo, non solo della certificazione delle spese, ma anche eventualmente dei budget a disposizione dei singoli consiglieri? Assolutamente sì. Lei ha guardato le varie spese, che tipo di lettura dà? Evidentemente era talmente diffuso che tutti hanno considerato normale qualcosa che di normale nulla ha. Ha un'idea di quanto potrebbe e di come potrebbe essere modificato questo meccanismo? Se Regione Lombardia regolamentasse in maniera tale per cui ogni spesa deve essere resa pubblica anche nella sua giustificazione, vedere che Pinco Pallino ha scaricato 6.000 euro per un ricevimento in straordinaria coincidenza col giorno delle nozze della figlia sarebbe uno strumento di verifica estremamente importante. Mettere online tutte le spese? Con i giustificativi e con i documenti a supporto. Renderebbe possibile una, tra virgolette, competizione fra i diversi soggetti politici. Per quanto riguarda invece il fronte del budget a disposizione di ogni singolo consigliere, quello che il Presidente può fare è assumere un impegno a che una revisione di tutti questi meccanismi, degli importi e dei valori, sia fra i provvedimenti di più rapida approvazione da parte del Consiglio regionale. È qualcosa che si può pretendere. La remunerazione dei consiglieri regionali della Lombardia è nella media, certo, può essere migliorato, soprattutto bisogna fare una correlazione effettiva tra l'attività prestata e la remunerazione conseguita. Cioè una specie di stipendio a punti? La sintesi è molto efficace. È preoccupato, sì, che possa venire fuori qualcosa di analogo anche all'interno dell'opposizione? Non ho nessuna difficoltà a immaginare che questo possa aver riguardato anche soggetti ulteriori. Per questo parlo di un meccanismo che va rivisto con grandissimo rigore. Allora, un ascoltatore ci chiede di poter riascoltare le puntate dove abbiamo parlato dell'inchiesta sull'Emilia e sul Piemonte. Temo di averne fatte almeno una decina, diciamo, che riguardano non soltanto la Lombardia ma a tutte le regioni di destra e di sinistra, anche perché, ripeto, Radio 24 non fa sconti a nessuno, fa facendo il giornalismo di mestiere. E altri invece ci raccontano di, ecco, ci chiedono se noi abbiamo i nomi di quelli che non sono coinvolti. Raffaella? Abbiamo già ricordato, sono Viviana Beccalossi, Enzo Lucchini e l'ex ministro Gelmini per quanto riguarda il centrodestra. Poi saremo a vedere, ora che le indagini della Guardia di Finanza e dei magistrati andranno a guardare le spese dei consiglieri dell'opposizione, PD, SEL, di tutta l'opposizione della Regione Lombardia, che cosa verrà fuori, vi racconteremo. Ci sentiamo il 7 di gennaio 2013 con una nuova edizione di Italia in Controluce. Auguri a tutti di buon Natale, buone feste dalla redazione di Radio 24 e da Daniele Biacchisi.